Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Benvenuti, bentornati, Luca Tremola al microfono, Nova Lab 24, Cristina Tagliabue di ritorno dalla settimana del Salone del Libro che si è concluso lunedì. Com'è andata? Ma benissimo, devo dire che vabbè, io sono stata domenica pienissimo, mai visto così tante persone, poi ovviamente grandissimo clamore anche per la polemica che c'è stata tra le intercettazioni, le case editrici, chi era pro, chi era contro. Bagarre. Quindi... insomma, tutta una giornata particolare. Noi però oggi, anzi, ci hai portato due scrittrici, Alessandra Fariella e Mary B. Tolusso, che sono qui con noi. Ascolteremo le loro storie, leggeremo un pezzetto dei loro libri, ma prima ascoltiamo i consigli di Cristina Tagliabue. È stato presentato il libro L'arte della sovversione, Multiversity, pratiche artistiche contemporanee e attivismo politico, che nasce a seguito del seminario internazionale Multiversity su arte e attivismo. Esiste un potere sovversivo della creatività? Come convivono libertà espressiva e logiche finanziarie nel mercato artistico? Che rapporto si costituisce tra politica e creatività? Sono queste le domande che si ritrovano in Multiversity. Il libro è curato da Marco Baravalle per Manifesto Libri Editore. È stato presentato ieri presso la Libreria del Cinema il libro La rivoluzione seriale, estetica e drammaturgia nelle serie Hospital di Nicola Lusuardi. In questo libro l'autore si occupa di descrivere le forme e la struttura della nuova serialità a partire dalla narrazione ospedaliera, l'unica senza un precedente cinematografico. Nel libro vengono analizzati in particolare ER, House MD e Grey's Anatomy. Inizia lunedì 7 giugno la manifestazione Libri a Teatro, ciclo di letture spettacolari. Il ciclo si apre con il nuovo romanzo di Fulvio Hervas, Finché c'è prosecco, c'è speranza. Letture sceniche a cura della compagnia teatrale Quelli di Grock. Opening 7 giugno, ore 19, al Teatro Leonardo da Vinci di Milano. Inaugura oggi, nel cuore di Roma, il Vigamus, il primo museo del videogioco in Italia. Un museo interattivo, uno spazio per mostre temporanee, un luogo di dibattito e un osservatorio per la difesa e la legittimazione del videogioco. Vigamus, Video Game Museum. Il museo vuole essere un luogo cardine di divulgazione e conservazione, ma anche un'istituzione che supporterà iniziative e svilupperà sinergie con realtà culturali, produttive e istituzionali per sensibilizzare ed educare riguardo al consumo, all'analisi e alla divulgazione del videogioco. Partiamo con Alessandra Fariella, autrice del Lato B. Lato B, perché in realtà poi, insomma, mi è capitato in mano ultimamente un libro che aveva come cover il Lato B. Non era quello di Alessandra Fariella, prometto, nel senso che è un libro di Silvio Saffirio, che è un personaggio notissimo nel mondo della pubblicità, che dopo essere uscito dal mondo dell'autorevole copywriting, alla fine ha deciso di intervistare tutti i suoi colleghi. Tra l'altro ci sono le interviste anche a Pirella, personaggi importantissimi della pubblicità italiana. E cosa c'è in copertina in questo libro? Dimmelo tu, visto un che fondoschiena, uno splendido fondoschiena, insomma, sono dei jeans molto stretti, io devo dire, un bello spettacolo comunque, piace a tutti. È la pubblicità della Jesus. È la pubblicità della Jesus. Che voi tutti ricorderete, forse gli ascoltatori ricorderanno, perché c'era questa ragazza, il suo Lato B, no? Ce lo ricordiamo. E questo è un libro serio che utilizza in realtà il corpo della donna in maniera, insomma, quantomeno equivoco, no? Anche nella copertina di Alessandra Fariella il Lato B c'è un qualche cosa che rimanda... Che cos'è? Dico io, che sono Alessandra Fariella, mi presento, sono qui. Sono l'autrice del Lato B, che diciamo è edito da Fazzi, perché è importante, se no gli editori si arrabbiano. E descrivere la copertina può sembrare un pochino inquietante, perché c'è questo uomo, non si vede la faccia, elegantemente vestito, a tavola, con un coltello in mano e davanti un piatto, e al posto di un budino o di un pollo abbiamo un sedere di donna. Ecco. Colorato. colorato, colorato. Perché c'è una tinta devo dire fucsia, che importante. I grafici sono stati molto bravi, perché secondo me è molto interessante questa immagine, è inquietante nello stesso tempo ironica, e colpisce subito il bersaglio, cioè si capisce molto bene di cosa parli, da maschietto dico colpisce. E comunque, se posso dire, visto che come dire, torno dalla fiera del libro, in realtà Fazzi, che è l'editore di questo libro e quindi il cui art director avrà scelto e selezionato la copertina, in realtà ha fatto anche la cosa forse più innovativa della fiera del libro, nel senso che Fazzi ha cominciato a riempire la città di manifesti dei libri, che è una cosa nuova, mi sembra, sì, no? Nel senso, la forma cover di marketing del libro, esatto, in giro per la città. Ma devo dire che Fazzi sono piuttosto bravi con il marketing. Noi facciamo una cosa altrettanto innovativa e mandiamo in onda un breve stralcio delle prime pagine del libro, lette direttamente dall'autrice Alessandra Faiella. Sentiamo. Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più gnocca del reame? Sei tu, Katia G, the queen of lato B. Grazie specchio, stasera la festa spacco. Il rossetto Chanel mi sta da Dio e la camicetta diesel mi fa due tette così sode e rotonde che se mi incontrassi per strada cercherei di rimorchiarmi. Insomma, abbiamo intuito qualcosa, ma di che cosa parla il libro? Allora, visto che così entrare ecco, un po'... In poche parole, in modo sintetico, perché in radio bisogna essere sintetici, parla di Katia G, una ragazza che fa la sua scalata sociale, come dire, utilizzando le sue doti fisiche, anche se una ragazza provvista di doti anche mentali, cioè ha un quoziente intellettivo molto alto, ma decide di non sprecare il suo tempo negli studi, perché come dice poi la quarta di copertina, se ti laurei ad Oxford e poi finisci a stirare la maglietta di tuo marito per il calcetto della domenica, forse hai buttato via il tuo tempo. Diciamo che è una ragazza molto cinica, molto spregiudicata, che attraverserà il mondo della televisione e della politica per arrivare a una meta ancora più alta, e diciamo così è una parabola in senso ovviamente comico e grottesco dei media, sia quindi del mondo della politica e della televisione, perché anche la politica è mediatica in questo momento in Italia, ed è anche una satira ironica ma anche molto amara sull'utilizzo del corpo della donna sempre nei media e più in generale nella società. Ovviamente è un paradosso, cioè parliamo di ampi spunti dalla realtà, ma sempre visti con una lettura estremamente umoristica. Perché vorrei anche ricordare, insomma, che Alessandra Faiella ha una storia in realtà di programmi show noti. Io me la ricordo per il mitico Ambient. Ambient. Che era all'interno di Pippo Kennedy Show. Pippo Kennedy Show, esatto. Pippo Kennedy Show, ma partecipa a Chiambretti Night, ha lavorato per Marchette, Jalapas, esatto. Insomma. Ti hai anticipato, noi avevamo una scheda con tutta la bio, la stai anticipando tu. Se l'avevi fatta anche tu, per ho sbagliato. Fa niente, no, però la cosa che volevo capire, cioè quindi poliedrica si dice, no? Si dice sempre poliedrica, attrice comica, eclettica. La cosa che volevo capire è che insomma c'è un grande spazio editoriale alle donne, almeno appare un grande spazio, cioè ma appare uno spazio che forse prima non c'era, dove noi poi in questa trasmissione abbiamo ampiamente parlato, grazie Cristina, dove da un lato si critica, insomma c'è una voce arrabbiata alle volte, una voce critica. Di fatto però che cosa succede? Questa voce cade in un momento in cui insomma la figura della donna, il lato B è un titolo giustamente ironico, in Italia quantomeno è fortemente in discussione. È casuale, perché di solito dovrebbe avvenire il contrario. Questa cosa non è un... No, perché siamo in un mondo molto contraddittorio e molto pieno di sfaccettature. Quindi, da un lato, le donne hanno fatto grandi conquiste, e tra queste conquiste c'è anche quella di farsi spazio nel mondo editoriale, così come in altri campi della cultura, della scienza. E poi abbiamo il tentativo da parte di alcune zone, diciamo, della società, di rimandarla indietro. Soprattutto quella che è la parte mediatica, per motivi diversi, soprattutto di sfruttamento economico, cioè il business ha scoperto che il corpo della donna vende e quindi ne approfitta. Queste sono un po' le contraddizioni di questo momento in Italia. Ma solo in Italia? Perché in Italia è così pronunciato? Ma in Italia il maschilismo secondo me è molto più duro da sconfiggere che in altri paesi, però credo che la situazione non sia diversissima in altri paesi europei. Ma infatti io, Luca, ricordo il libro di Naomi Klein che parlava nel 1990, una giornalista, parlava di quoziente di bellezza che all'interno dei colloqui di lavoro in realtà funziona di più del quoziente di intelligenza. Come si calcola il quoziente di bellezza? Beh, questo onestamente non lo so, certamente Barbie ce l'ha alto. Lancio una provocazione e poi mi picchiate, ma non è che se ne sta parlando troppo? Cioè che ci sia il rischio di avere un effetto contrario. Però non se n'è mai parlato tanto, è vero, in quest'ultimo periodo se ne parla, ma se ne parla perché siamo arrivati a un punto di esasperazione. Cioè abbiamo assistito a certe cose, lo dicevo stamattina ad un'altra intervistatrice, io a un certo punto ho dovuto far smettere di vedere un programma televisivo in primissima serata alle 8:30 a mio figlio che ha solo 9 anni, perché un quiz normale aveva questa presentatrice, magari valletta, chiamiamola così, che non faceva nulla se non sorridere, ammiccare al conduttore e fare abbondantemente vedere sopra e sotto tutto il ben di Dio che aveva. E mi imbarazzava con mio figlio, non tanto per una questione sessuale. Tra l'altro Il lato B è un libro che parla anche di sesso in modo parecchio, direi, in modo però sempre molto divertito e divertente. Ma mi sono imbarazzata con mio figlio per l'immagine della donna. Ho detto, ma un ragazzo e quindi l'ha di strappato, 9 anni. L'hai strappato. No, gli ho detto, beh, guardiamo i Simpson. Che censura! No. No, ma non per un fatto sessuale, ma proprio no, poi per i il fatto Simpson che sono meravigliosi. Sono meravigliosi, ma era un'immagine un pochino agghiacciante forte della donna. Un nuovo ospite abbiamo in una nuova ospite, cioè Tagliabue, per cui sono tutte donne. Mary B. Tolusso, scrittrice, giornalista e giallista, se non sbaglio. Oddio, non proprio giallista, l'immaginatrice nuarista. Oltre. Ma quindi qual è la definizione giusta? Del romanzo? No, del suo genere, insomma. Ah, Dio, questo è abbastanza difficile. C'è chi l'ha definito un romanzo anche di formazione, ma secondo me, non so, è un romanzo che è a metà tra la commedia e la tragedia. È l'autrice dell'Imbalsamatrice. Sentiamo la scheda che spiega chi è Mary B. Tolusso. Mary Barbara Tolusso, classe 1967, laurea in lettere moderne, vive e lavora tra Milano e Trieste. Alla sua attività di giornalista affianca quella di scrittrice. Ha pubblicato i volumi di poesia Cattive maniere, L'inverso ritrovato, con cui vince il premio Pasolini nel 2004, e L'imbalsamatrice. I suoi testi sono tradotti in spagnolo, sloveno e americano. Allora, di che cosa parla questo romanzo? Il romanzo parla di una donna appunto bisessuale che divide la sua vita di giorno imbalsamando cadaveri e di notte cercando in maniera stravagante di imbalsamare se stessa. Questo è il tema. Poi c'è in realtà una storia in cui questa donna viene lasciata da un uomo, non capisce appunto perché, e tutto corre intorno anche a questo plot in cui quest'uomo non si capisce a sua volta dove è immischiato in qualche affare nero, insomma in qualche affare di droga, c'è un mistero intorno. Ecco Mary, sono Cristina Tagliabue. Senta, ma mi domando, da dove è venuta, come dire, l'idea? No, siamo una trasmissione di innovazione, quindi mi domandavo, lei, cioè, mi è sembrata, come dire, un'innovatrice della letteratura italiana, nel senso che è un genere veramente nuovo, nel senso che è un noir al femminile quello che lei ha fatto. Da dove è venuta l'idea? Ma guardi, in realtà poi la risposta è molto semplice, perché l'idea mi è venuta spontaneamente, naturalmente, essendo io, i miei familiari hanno diverse agenzie di pompe funebri nel Friuli Venezia Giulia, quindi essendo di conseguenza io anche molto pigra, e si sa che quando si scrive un romanzo bisogna fare un'opera di ricerca, mica da poco, mi sono detta, ma ho tutto in casa. No, ma va benissimo, però io non so cosa ne pensa Faiella, però è giusto. Beh, in fondo anch'io guarda, mi sono mossa un po' dalla casa mia, cioè sono partita un po' dal mondo televisivo, poi naturalmente la fantasia dell'autore, dello scrittore elabora tutto questo, lo trasforma, però effettivamente partire da qualcosa che si conosce è più stimolante e soprattutto rende più credibile poi le cose che scrivi, anche se usi il paradosso, se no uno dice, te che ne sai, e invece certo, ne sai, lei sa di morti e io so di vite da vive. C'è un programma che cito nel lato B che si chiama Vite da vive, e in qualche modo non so perché li imbalsamata dice, me l'ha fatto venire in mente. Allora, io avevo promesso, per spaventare un po' i nostri ospiti, una domanda di tecnologia, giustamente la faccio, perché giustamente... Ah, devo... quindi era vero, non facciamo. Era uno scherzo. Ma no. Ne ho una io. Ah, vai. No, posso? Sì. Il diritto all'oblio. Ah, diritto all'oblio su internet, ma questa è una roba un po' complicata, no? Beh, però morte, diritto all'oblio, no. No. Ho sbagliato. Tolusso, diritto all'oblio. Non riesco, purtroppo con il suo cellulare non riesco bene. No, capito. No, no, ma lo faccio anch'io di solito. Allora giriamo diritto all'oblio a Faiella. Cosa devo dire? Scusami, che domanda è? Allora, io provo a spiegare all'oblio agli ascoltatori cos'è questo tema del diritto all'oblio. Cioè, su internet in realtà qualsiasi cosa tu scrivi rimane. No, sì. Rimane per sempre. Sì. Allora c'è chi pensa che invece bisognerebbe cancellare, no? Almeno delle cose che non si vuole che le persone sappiano di te. Mm-hmm. Per esempio, io da piccola ho rubato la marmellata al supermercato. Mm-hmm. La mia amica l'ha scritto e adesso io risulto una ladra. Se qualcuno vuole vedere il mio curriculum, troverà anche che io ho rubato la marmellata al supermercato. Certo. Quindi, come dire, diritto all'oblio, nel senso che non è la privacy più che altro. Sì, esatto. Insomma, e infatti è un di cui della privacy. Ma è il motivo per cui io non mi sono iscritta a Facebook. Cioè, poi ho scoperto che su Facebook c'è un mio fan club che ha tipo 12 persone che lo seguono, ma guerritissime. No, però sono no, sono un po' di più, ma è anche recente, insomma. Sono partita con la modestia, adesso mi vanto. No, c'è un piccolo fan club, ma io non mi sono iscritta per questo, perché non mi piaceva l'idea che si inserissero, poi scrivi una cosa, rimane per sempre, la usano, mi vedi chi un dice po'... una stupidata, tutti ti dicono ha detto una stupidata, adesso ti sputtanano. No, no. Tolusso, sei su Facebook? Sì, no, per questo diritto allo zio, a me sinceramente non me ne frega proprio niente, anzi lo trovo molto divertente, nel senso che quando si scrive, che si scriva su carta o che si scriva su Facebook in modo virtuale, c'è sempre una mediazione, c'è sempre un'irrealtà, per cui in realtà poi quello che sei veramente, a mio avviso, non vengono mai a saperlo. Cioè, io per esempio propongo diverse identità, nel senso, nella stessa bacheca, ma posso essere molto aggressiva un giorno, un altro giorno diciamo non dolce, ma più serena, eccetera, eccetera. Insomma, la prendo come un gioco. Una Quindi la multi-identità, però è un po' un mentire. Beh, certo, ma quando non mentiamo, cioè trovare anche una dimensione di autentica schiettezza è molto difficile, a mio avviso. La scrittura si presta, no? Come si dice, sì. Un fuggitore anche. Però insomma, io su Facebook preferisco, sì, io posso essere molto sfaccettato, però insomma la mia foto deve corrispondere a quello che sono, altrimenti prendo un po' in giro, no? Boh. Vero è, secondo me, che rispetto ai blog e comunque rispetto ad altre dimensioni, sempre telematiche, poi anche in questo gioco, all'interno di questo gioco, per quanto uno magari voglia anche divertirsi e mentire, forse più di altri strumenti Facebook traduce una verità di carattere, almeno da quello che ho constatato io, poi le persone che ho conosciuto anche tramite Facebook corrispondevano abbastanza alla loro pagina. Va bene. E quindi... Va bene Mary, Bitolusso, ti ringrazio, in bocca al lupo per il libro, chiaramente in bocca al lupo anche a Faiella. Grazie. Per Cristina Tagliabue l'appuntamento è giovedì alle 16.30, noi invece ci sentiamo domani. Nova Lab 24. Nova Lab 24.